clank, clank, clank quando premi. Tipo quel turner di una volta. Sì, anche quello di Lucca fa così. Anche quello di Tino fa così. Tutti quelli che usano 60 fa così. Ai ai ai, vabbè. Sì, ma sai, diventa un po' come la telegrafia. Si accorge subito. Certo. C'è proprio l'azione, non è fortissima, però si sente la Liguria. Io però appena sento qualcosa in sottofondo, ma qua è molto più silenzioso rispetto a Sassari, manca paragone. Scusa qua, non ti ho sentito, stavo parlando della Liguria, hai detto che anche lì? Anche qua sento qualcosa, ma rispetto a Sassari è molto più silenzioso, capito? Meno QRM, meno tutto. Le nuvole che stanno camminando, stanno sempre salendo l'Alghero, però un più spostate verso Monte Oro. Non credo però, aspetta, ti dico il vento, vediamo se c'è il vento. Vabbè, che cadi, sì, c'è un vento, c'è proprio basso, basso, basso, da Potenza a Porto Torres. Basso però. Non so se maestrale, penso di sì. Qua c'è anche abbastanza fresco, si sta bene, non c'è niente da dire, si sta benissimo. Speriamo che continui un pochettino a diminuire, così almeno si sta ancora meglio. Ho visto che stavo prendendo il pellet dove d'accordo, come si chiama? Alla Conant. Ma è così caro? Oltre 10 euro? Ma cosa il pellet? Ci avviciniamo un po' e provate a ripetere. Ma cosa il pellet, Gianfranco? No, scusa, aspetta. Devo parlare una cosa prima, sto soltanto questi. Hai detto? Sentiamo niente. Non ti capisco quando parli, dai potenza, cazzo, Gianfra. Non ci stiamo parlando di spagnoli, minchia, io quando entro in radio mi devo far sentire, cazzo. Tra te e Giulio non so più quanto farvi dai, cazzo, fate potenza. Non ti sento, mi Gianfra. Sì, Santiago 7, cazzo. Aspetta, guardo. Oh, non ho cambiato niente, adesso. Ehi, Santiago 8, ma non c'hai voce, non ti sento, sollevo la voce, hai amplificazione, minchia. Cioè, quando entra la radio, se fa sentire, non può diventare sordo, Gianfra. Cazzo. È bastato a dirlo, guarda, ho aumentato un po'. No, perché il microfono è normale, se mi sporgo a regolare l'altra. È chiaro che mi devo un po' allontanare. Ma chi c'era? Bartolo, non ho sentito una chiamata. Non so, cazzo, ti sento adesso di radio, minchia, ma se modulate tutto in quel RP, tutti chiusi, da cosa serve? Cioè io sento in radio, mi devo far sentire, cazzo, mamma mia, se no che divento cioè non vi capisco, non vi capisco. Facciamoci sentire, se abbiamo l'amplificazione usiamola, diamo qualche watt, cazzo, stavano coprendo gli spagnoli, E tanto arrivano deboli. No, io per quello sento sempre tutti, non è che ci sono bisogno di fatto. Comunque, adesso ho aumentato un pochino, niente di meno che 4 watt, di più ne vuoi. 4 watt, cazzo, già sono 4 watt, anche se sono pochi, ma minchia, anch'io non sto andando con un kilowatt, sto andando con 20 watt, di 15 watt 20 modulati, normalissimo per un baracchino, che cazzo, ma se voi siete tutti con un watt, la madonna, cazzo, io sono a 6 km da Sassari, non sono dentro Sassari, quindi è chiaro che i segnali a me mi sono abbassati tutti, se no non vi fate sentire, buonanotte a Lugataro. Non avevi radio, adesso ti sento di radio. Tranne io, sono sempre più forte. Vabbè. Cosa vuoi che ti dica? alzati un po' con l'antennina, rimettiti quella che c'avevi prima, e sta già lì. Ce l'ho, è un pochettino nero, ma non è quello che passa. Non lo so, chi è che ha parlato sotto avanti? Io, ti faccio più bello un poco, buonasera. Oi, ciao, oggi, buonasera. Tu lo senti a Gianfranco? Sì, poco fa no. Figurati tu. Figurati io. Santiago 7, radio 0, tutto il volume a manetta per ascoltarti. Adesso ti ascolto del radio, anche se di segnale sei basso, va bene. Ciao Eugenio, buonasera, avanti. Buonasera Gianfranco, non so se mi ascolta Luca. Io lo sentivo bassissimo, proprio basso. Poi ho messo e non sono riuscito a sentirlo. No, io già ti sento senza problemi. E dipende anche dagli apparati, c'è quello che riceve di più, c'è quello che è più sordo. Sento benissimo. Hai sentito oggi? Ho ricevuto? Sì, dipende dagli apparati. Non penso che Claudio abbia un apparato così, insomma. Io sto andando col 430 e lo sento benissimo. Perché quando ha tirato sulla potenza il segnale è salito, quando ha tirato sulla radio, la radio è salita, quindi non penso che sia la mia radio sorda, è proprio lui che aveva bassissima potenza, come il suo di solito, per carità, lui modula sempre in QRP, comunque, il 27 QRP non serve a niente, perché a meno che non sia vicino, ma quando uno è lontano, se non dai appena appena più di gas, non va bene. Avanti già fra le prendi. Sì, lontano. Sai che sono lontano. Cosa volevo dire? Volevo chiedere una cosa al genio. Comunque c'è preparazione sotto ogni tanto quelli. Se faccia qualcuno, ma deve essere dalla Spagna. Dimmi tutto, Giacomo, dimmi tutto. Ma dove sei, al lavoro? No. Negativo, non ho finito alle due. Ah, ho capito. Ogni tanto salta la propagazione, maledizio, ogni tanto manda una cosa. Si alza la propagazione e si sentono altre modulazioni da fuori. Sali scendi. Non so, io qua non sento niente, appena qualcosa, ma niente di che. Mi ascolti bene di radio, Eugenio? No, vabbè, non so se mi avevi mai sentito col 430, però penso che sia una bella modulazione anche questa. Senza fare. E non me lo dia allora, va bene, cappa. Avanti Gianfranco. Ogni tanto mi arriva una specie di cosa da fuori, chissà perché lo tengono così, e niente, tutto via. Un attimino di QRX, Claudio, per me, che ci sono delle comunicazioni interessanti. Va bene, comunica, noi siamo qua, che comunichiamo col coso, come si chiama, avanti, oggi. Finalmente un po' di tempo per me, va? Che stagione, per carità, mamma mia. Stagione brutta, complicata, no? Poi, guarda, veramente, stagione così mai fatta, per carità. Poi, proprio assurda, la gente è presa d'assalto, quest'anno siamo sprofondati oltre il metro. Ma la gente che c'era, la gente che è venuta, e ma la ciocca sta continuando ad arrivare, sta continuando ad arrivare, Non sai, adesso sono i settembrini, e arrivano, a voglia ci arrivano. Sarà un'annata un po' particolare, anzi per settembre. Io lo so, l'abbiamo già tutto fatto, lo so. Ma i tifosi hanno un animo. Io garro un po' le scatole, per carità. E io c'è l'ultimo zio. Evidentemente la gente li abbia detta in giro. Ci abbiamo avuto la gana mia. Bah. E poi faccio la bella luce. Come esco in giro, l'ultimo che e poi dai, come è andata la fuori al campo? Sì, tutto bene, a posto. Tutto a posto. Tutto ok. Molto bello. Però io non mi ci ho andato. No. Raggio, non riesco a stare dentro, vai. Te l'ho già detto, ti ho già spiegato, però. Mia figlia si è divertita, hanno fatto tutto loro, sono stati 3 giorni fuori e tutto gappa. Ah, tu sei andato, ho capito, andare là, vabbè. No, non ci riesco a stare a dormire dentro, no. Non fa, non ci sono mai riuscito, la verità, perché già mia sorella, il vigile, già da quando erano fidanzati hanno sempre avuto la loro rotta, hanno sempre fatto campeggio, anche da sposati, tutto. Ma io ci stavo durante il giorno, poi la sera me ne andavo a casa, no? Rimanete qua a dormire, no. Non vi riesci oggi, non so il perché, ma non ci riesco. Non sono solo comunque. Sì, è questione di abitudine, è questione di non so, però io non mi l'avvatto. E allora niente. No, sono andati comunque, sono divertiti meglio così. Andare. Ma vorrei prendermi anche un po' di ferie, non ce la faccio più, sono stanco. Arrivare a dormire al porto col camper, no, non fa. No, se poi uno non è abituato come me, non fa. Va bene, dai, se devi andare vai, oggi non c'è problema. Rimango un attimo qua con Rick, se poi. Anch'io vado a avermi un po' di TV, cappa. Fai. Ciao, mi fa un piacere, ciao. Ciao, oggi, ciao. Piacere mi ha fatto anche a me, dai. Ci aggiorniamo dopo, ciao. spero di gente. CQ10, c'è qualcuno su 10? Hola? Quindi? Allora? È così, è poi... canale 10. E avanti, la vedo dall'aeroporto. Buonasera, operatore Carlo, qua da questa parte. Buonasera anche a te, ok. Stazione Uranio qua dalla collina di Osilo. A te con la buonasera, cambio. Buonasera, freschetto avete a Osilo? No, non ti credere, anche se sei in alto. Insomma, un po' la temperatura è calata, ma non è che sia... Non è che sia chissà cosa, Ma meglio di più, adesso può, almeno un po' si può respirare un po' fuori. Niente, si può dare, sta tirando pure un verticello, ma siamo bene lo stesso, vai. Sì, decisamente ha migliorato da quel punto di vista. Io poco fa me ne sono uscito a fare un bel giro della città in bicicletta, ovviamente bicicletta con la pedalata assistita, perché a Sassari ci sono troppe salite, quindi diciamo ho fatto tutto il giro, sono sceso da via Milano davanti all'ippodromo, poi sono passato da via l'Italia, sono sceso a San Pietro, ho fatto centro storico, insomma, e poi alla fine sono passato dal Corso, sono risalito, sono passato da Piazza Castello, Piazza d'Italia, via Roma, di nuovo su a davanti ai Vigili del Fuoco, la Torres, che c'era la partita, era pieno di gente, il piazzale macchine, non c'era neanche un buco per parcheggiarsi, però non si sudava, capito, perché c'era un venticello bello fresco, e ti dirò che ero da parecchio che non uscivo perché avevo paura del caldo, appunto, e a te Francesco. Ah, ok, tu sei girato quasi tutto Sassari, a quanto pare. Vabbè, è troppo facile però con la pedalata assistita, è quella lì, una bicicletta elettrica in pratica, la pedalata assistita è quella lì. Va bene, ok, però con la bicicletta, sempre bicicletta si pedala, la bicicletta è fatta per chi ha voglia di sprecare un po' di energie, capito? Di far bruciare, diciamo, calorie, energie, insomma, cose varie, capito? Beh, ognuno la pensa come deve fare, però la bicicletta è, diciamo, è molto meglio, perché la bicicletta, io le biciclette ne ho due, io, per esempio ho la mountain bike, è professionale e anche una... è fatta per, diciamo, per sport, così è troppo facile, con una bicicletta, diciamo, pedalata assistita, ma ognuno la vede lui. A me, diciamo, sì, è comoda quella lì perché non pedali, e, diciamo, secondo che salita trovi, anche lo stesso la devi aiutare con... il motore, con il suo motore elettrico. Perfetto, te cambi, vai. Aspetta che c'è qualcuno sotto, avanti chi vuole entrare, avanti sul canale 10, mi sembrava sotto ci fosse qualcuno importante, abbastanza anche alta di segnale, poi non si è sentito più niente, poi sotto a fondo si è sentito qualcuno sul 10, però non ho detto avanti e non mi ha risposto. Sì, ma io praticamente tanti anni fa uscivo con la bicicletta, capito? Poi avevo mollato tutto perché mi ero trasferito in seguito a Sassari e di conseguenza poi non mi ero fermato, quindi riprendere con la bicicletta mi veniva in salita, anche perché non sono più giovincello, per cui l'ho presa anche per fare commissioni eccetera, capito? Molto utile, perché evito a volte di prendere la macchina secondo dove devo andare. E Sassari, diciamo, non è molto pianeggiante, quindi quella mi aiuta parecchio, capito? E di energie già ne consumi, a volte sono salito anche su a Osilo, e credimi che quando a salire su devi pedalare, ne bruci, certo non è come una bicicletta normale, però quella è proprio per chi è amante dello sport, eccetera, ma io sono amante così della, un po' della natura, gite, la mia è una mountain bike, lo stesso elettrica, a volte vado anche su a Monte Bianchino, capito, ci sono dei percorsi particolari, e già c'è da pedalare, anche se hai la pedalata assistita, a volte la devi anche togliere a seconda di dove sei, per cui è importante muoversi, io avevo così, capito, fare qualcosina. Certo, avessi avuto qualche anno in meno, magari avrei ripreso con la bici normale, certamente con quella era anche meglio. Va bene Francesco, a te il microfono di nuovo. Sì, ok, yeah. Perfetto, se vieni qua, vabbè, hai detto che ci sei già affacciato qua, là. Qua ce ne sono molto, molto più di sassari di salite, parecchie salite, in pratica è tutto salita, solo diciamo la periferia giù, diciamo l'entrata del paese, diciamo così, lì è pianura, vabbè, ma dopo inizi a salire diciamo proprio sul paese, tutto salite, devi sempre pedalare. Beh, lì con la, diciamo con la pedalata assistita è ancora meglio, perché le salite è una maledizione, sono pesanti. Basta, è dalla voce già si sente che non sei, diciamo, un giovincello come dici tu, Ma io mi pare che sia anche un po' leggermente anche molto più grande di te, quindi immaginati un po'. Va bene. Comunque con quella, sì, con la mountain bike un po' quella lì è pesantuccia, perché quella lì è fatta, diciamo, per sport, diciamo, fare fuori strada, ma io non la uso mai a fare fuori strada, perché è un casino, secondo dove passi puoi, diciamo, rovinare qualcosa, infatti io non ci vado mai a fare, diciamo, fuori strada così, anche se, diciamo, è fatta per, proprio per quello sport lì. Va bene. Però quella da corsa già è molto migliore, perché quella lì, diciamo, è anche molto più veloce della mountain bike, è anche più veloce della tua pure, se con quella lì io mi metto a pedalare a te, ti passo. Però sempre se trovi salite è quella la situazione. Diciamo i regimi, diciamo, di velocità si calano di parecchio. Vabbè, cioè, ci sono i cambi, diciamo, i rapporti, quindi puoi scalare, diciamo, secondo, diciamo, del percorso che stai, diciamo, impegnando, e quindi, diciamo, già si non lo stesso. Va bene, ok, a te il cambio. Io da poco ci sono andato lì a Osilo, anche perché salgo da Pulinas, il meccanico, spesso, avendo due macchine, o per la revisione o per la manutenzione, ogni tanto ci passo dalle due parti. C'ho anche un collega che lavora con me, Emanuele, penso che tu lo conosca, e lavoriamo insieme, a volte dipende dal turno, dai. Dunque stare qua a fare la revisione della macchina, va bene. Evidentemente magari ti farà qualche sconticino qua, se il cliente, quello lì già diciamo già in gambuccio, quello lì. Quello io sono stato, diciamo, quando avevo la macchina ero sempre cliente di quello lì, andavo sempre da quello lì a farmi controllare, diciamo, la macchina e messa a punto e così via dicendo, adesso macchina non è più, e non solo macchina, manco la patente pure, perché non ce l'ho più, me l'hanno presa. Ok, va bene, dai. Roger, sì, magari con lui, se il cliente si può fare anche lo sconto della revisione, però lì a Sassi maledetti, quindi di puttana, non ne fanno lì, è il prezzo pieno e basta. Ecco. Ok, va bene, a te il cambio. Vediamo se c'è qualcuno che vuole entrare. Avanti, canale 10, in ascolto qua, operatore Uranio, Francesco da Osilo e Carlo da Sassari. Ciao Carlo e ciao a Francesco, giusto per un saluto e poi vi lascio continuare, Giovanni Stanco, ciao. Buonasera Giovanni, ben sentito, da parecchio che non ci sentivamo in radio, come va? In via di ripresa, caro, in via di ripresa, ce n'è ancora, però in via di ripresa, dai. Ok, caro, vi saluto, un abbraccio a tutti, ciao ciao. Ma Giovanni, ce la risentiamo, avanti chi vuole entrare sul 10. Beh, attenzione, canale 10. Da Gianni, avanti. Buonasera a tutti. Non so chi ci sia, dai. Sono appena acceso il telefono, quindi ho acceso in questo momento. Ciao Carlo, ben sentito, certo, degli altri amici. Avanti Carlo. C'è Francesco da Osilo, Uranio, poi è entrato un attimino Giovanni a salutarci, però è un po' stanchino, quindi è giusto un saluto, ha fatto ed è uscito, credo. A te Francesco. Ok, yeah. Buonasera Gianni, che pare che sei entrato? Tu? Va bene, un po' distratto, va. Niente K, ma da prima c'era anche un altro che voleva entrare, non so, ha provato a farlo entrare, ma evidentemente non mi sentiva, non lo so, mi ha passato. Mi ha sovramodulato, va bene, dai, ok. Roger. Avanti, mi pare Gianni. Ciao Horace, ti sento molto disturbato, lascia capire cosa dici. Ti sento molto disturbato di radio, di segnale va bene. Ma di radio c'è questo rumore sottofondo, disturbi tutti i tipi. Non so tu come ascolti Carlo, lo riprendi tu e vediamo. Io ci stavo parlando da un bel po' con Francesco, io lo sento bene. Di segnale qua mi arriva 9:30 a casa mia e la radio 5 io lo sento bene. Allora in funzione si sente, ok. No, io no. Diciamo così, fastidioso, no? La ventola, motore. Ok, va bene. Avanti, chi vuole entrare sul 10 cambio? Avanti sul 10, chi vuole entrare, avanti. Oh Cristian, buonasera, Carlo, c'è Gianni, doppio room, e Francesco da Osilo. Buonasera, avanti. Ho copiato, sei all'altezza di Muros, ma sulla 131, e tu lo senti Cristian? Io? Cristian stava parlando, più o meno è nella zona di Muros, ha detto. Ehi, ciao Cristian, già l'ho sentito, basta, ma l'ho sentito. Ho molto QRM oggi, non lo so perché. Niente, io non QRM proprio niente, poco. Avevo lo squelch anche un pochettino alto, adesso l'ho abbassato, ma è quasi a 3, diciamo, e mi va via proprio il rumore di fondo, quindi non ce l'ho alto io. Tu Francelli, da quelle parti tue in alto, com'è la situazione QRM? QRM è solo il fruscio dell'etere, della frequenza, è quello che c'è di solito. Qua correrebbe normale, ovviamente, non lo so, qualche disturbo magari chissà dove, non lo so, qua diciamo come correrebbe non ce n'è, c'è il solito fruscio che c'è sempre frequente, quello c'è sempre. Ok, nient'altro. Vediamo se ci sente Cristian. Cristian, ci sei ancora o sei in zona d'ombra? Che hai copiato a questo passaggio, prima ti avevo un po' perso, però adesso ti ho sentito bene, sei quasi alle gallerie. Appena le finisci ti sentiremo ancora più forte. Vai Gianni. Ehi, allora, deve essere qualche disturbo vicino a casa, dai, il QRM, perché poi un momento è uscito bene Francesco da Usilo, è uscito bene un momento. Poi di nuovo QRM. Sicuramente qualcosa che hai lì, perché QRM io qua ne ho poco e niente, capito? Io Osilo, diciamo, bello chiaro qua, va bene che in linea d'aria io ce l'ho di fronte, da su dove ho l'antenna lo vedo Osilo, capito? Quindi in linea d'aria siamo anche molto vicini. Ma che io per Osilo non ho mai avuto problemi, dai. Sono sempre arrivato tranquillamente. E adesso che sta facendo un fruscio una cosa del genere, ma secondo me qualche cosa che attacca in questo palazzo, perché mi interrompe anche le telefonate. E può essere anche qualche condizionatore d'aria in qualche appartamento vicino, molte volte quelli creano disturbo, e secondo se non sono schermati bene, magari la scheda elettronica, qualcosa del genere, oppure qualche altro apparecchio, non so che cosa, qualche decoder, cose del genere. Sì, quegli apparecchi per l'aerosolo, c'è qualche disturbo. Oh, c'è un amico che passiva, è andato anche a leve la cosa perché c'ha dei tralicci e cose. Niente da fare, hanno misurato, fatto, niente da fare. Poi era uno di fronte a casa sua che si faceva l'aerosolo a una certa ora, gli rompeva le scatole, gli creavano un quarremo e l'hanno fatto sentire gli altri. Esatto, perché chi fa quei trattamenti lì usa delle macchinette elettriche, sicuramente poco schermate, e magari era quello il disturbo. A volte basta una qualsiasi componente elettronica a disturbare, anche che, solo accesa, non fa rumore, però disturba tutti gli altri. A te ti sento benissimo, Carlo, ti sento perfettamente. Sono rientrato, ragazzi. Ivan, e allora, andici? Io ho già fatto la galleria, adesso sto entrando a casa. Ma chi? Non ho saputo di guidare. C'è qualcuno che fischia, boh, non lo so, qualcuno che sta disturbando col fischio. Cosa sta fischiando? Sei fuori in gita, Cristian. Dai, adesso meglio, vai. Adesso sono già in Italia. Adesso già ti sento bene. Adesso sono andato a Tiesi, che ora fanno un giretto, dai. Ecco, a Tiesi, ho capito, ho capito. Invece, Gianni, io prima sentivo qualcuno che fischiava, ma era un segnale forte, però poi non l'ho più sentito. Sì, anche quello che stava dando disturbo, non riuscivo a capire ciò che diceva, non mi splatterava, cazzo, con questo apparecchio è difficile che ti splatteri, no? Con me, Gianni, però li prendi i colpi, Li prendo e li posso anche dare, se vuoi. Non credo proprio, no? Io non ti sento neanche nel canale a fianco, capito? Puoi immaginare, tu li puoi prendere da me, ma io non da te. Vai Luca, vai, non ti gassare. Ma mettiamo alla prova, allora me ne posso parlare su 7, vediamo se riesci a capire qualcuno in tutta la sera. Vuoi fare la prova veramente? Fate che bruvi. Ascolta, ma che la gente da rompere i cattoli, vai, fa quello che sta facendo, va. Non provocare, Gianni, già lo sai. Luca! Capito. Invece lui fino a poco tempo fa lo sentivo in tutti i 40 canali, io non gli ho mai detto niente, capito? Io prima sentivo il fischio, ma era su questo, non su altri canali, capito? Non... Io sono Carlo, comunque buonasera. Ciao Carlo, io ero sul 20 facendo delle prove, dopo anche confermare Giulio che mi ha dato un attimo di controlli. Quindi eri con il nostro carissimo Giulio, bene Mela, va bene, e noi non ve la prendete però dai, e se no quattro chiacchiere in tranquillità facciamo solamente. No, ma uno se disturba dice scusami se ti ho disturbato, non è che rompa le scatole, capito? Luca, buonasera a tutti, vai al 20 un attimo Luca. Io ripeto, un attimo a Clark, io quando Gianni mi disturbava fino a 2 settimane fa su tutti i 40 canali col Texas, diciamo il gemello del Texas, io non sono mai entrato a dire Gianni mi stai disturbando, spegni, capito? Ah, così è. Li date voi i colpi, nessuno deve dire niente, li danno gli altri e vi lamentate. Ma io non sono entrato a chiederti niente, io ho detto solo che avevo dei disturbi e basta, non mi sembra di averti chiesto nulla. Dai, mi sposto sul 20. Vai al 20, buonasera a tutti. Buonasera a tutti, ciao Claudio. E dove sei arrivato? Ci sei mancato adesso, guarda. Arrivi bene adesso, vai Gianni. Cesco, ci sei ancora? Vedi, ci sono già. Ok. Ma questo l'ho perso io, però sentivo bene. Qua ma per raffreddare diciamo l'apparecchio, però si sto riscaldando troppo, perché anche se c'era dentro la sua originale, se ci hanno applicato questa aggiuntiva e raffredda meglio l'apparecchio. Ma intanto gli si attiva la sua, perché questo l'apparecchio riscalda molto, molto, molto, molto. Quindi così la situazione. Io come rumori non posso ancora mettere pure, perché questo anche la centrale telefonica, dove ci sono tutti i ripetitori, lì ci sono motori elettrici che stanno sempre in funzione, lì forse l'avrei vista qualche specialista, lì l'avrei vista, lì adesso la tenuta la sua ventola. Ok, la sua incorporata, niente, capito, i rumori ce ne sono qua, E quei motori elettrici, maledizione, danno parecchio fastidio perché, diciamo, creano disturbi al nastro, ok. Va bene. Allora, quando vuoi passare qua, facciamo un giro in bicicletta. Però con la bicicletta normale devi passare qua, così magari stare in macchina, ti mette la bicicletta, diciamo, dentro il portabagagli, se ci sta, oppure nell'imperiale se ce l'hai, e facciamo qualche giro, tanto provare le salite qua, a te cambio. Magari scendiamo verso Nulvi, che è più facile lì. Roger, sì, infatti, specialmente in quella strada nuova che avevano aperto già nel 2017 lì. Lì non sono mai passato, ma ho una mezza intenzione di passarci lì, andare, diciamo, a Nulvi e dopo ritornare dall'altra strada vecchia, diciamo, attuale, dai. Ok, ma da quella che hanno aperto sicuramente c'è una grossa salita, perché io stavo guardando col monocolo, ed è abbastanza, diciamo, salita, un po' ripida, da lontano non si vede bene, ma già si vede quando la stai, diciamo, percorrendo. Sì, la strada di Ulvi, diciamo, è abbastanza pianeggiante, dai, solo quando al ritorno, diciamo, c'è tutta la salita per arrivare qua in paese, sono circa 3 km di salita circa, ma già, diciamo, già è sopportabile, non è che sia, diciamo, una salita molto, diciamo, ripida, già è percorribile, diciamo, col cambio già si percorre abbastanza bene. È tutto qua. Sì, prima o poi ce la combiniamo una pedalata da quelle parti. Sì, la mia ci sta anche in macchina, anche, non ho l'imperiale, però se abbasso i sedili, capito, la metto, rimane appena appena il portabagagli aperto, ma ci metto l'elastico e molte volte faccio così, secondo dove devo andare, se prendo quella normale, sì, andiamo con quella. Va bene, vediamo se c'è ancora Gianni. Sì, sono qua, scusa, che hanno telefonato, non ho potuto rispondere. Cristian, ci sei ancora? Cristian era a Città Mercato, ma magari c'è da farsi un po' di spesa. Sta a pagare, papà non mi dà più cuore entrare in quel negozio. Quando era a Città Mercato mi piaceva, adesso non mi piace più. Adesso è Conad, giù, capito. Poi per il resto è rimasto tutto uguale. Prima giù trovavi di tutto, adesso trovi solo roba alimentare, basta. I Conad hanno solo generi alimentari e ho visto che hanno aperto uno spazio lì dall'altra a fianco, ed è lo spazio di Euronix, che l'hanno ulteriormente ingrandito, perché prima avevano solo una piccola parte, adesso l'hanno appena ingrandito. Allora prima a Città Mercato si trovava di tutto, dovevi prenderti pantaloni, scarpe, di tutto trovavi, capito? Tutto quanto. E adesso c'è l'alimentare, non mi piace più, non ci più. Sì, negli altri negozi vado, perché vado, ma proprio Città Mercato, la Conad, non ci vado, non mi piace. Ho capito, sì, prima quando era gruppo Auchan avevano di tutto, avevano sia gli alimentari che elettronica, vendevano lavatrici, di tutto, avevano televisori, telefonini, stufe, nel periodo di Natale ci trovavi gli alberi, i presepi, mettevano a seconda della stagione di tutto e di più, era meglio, diciamo, organizzato e più fornito. Sì, infatti, prima c'era più scelta. Sì, è vero che a volte uscivi e avevi speso 500 euro, ma non te ne accorgivi, però c'era di tutto, quello che ti serviva a trovarlo. E adesso è un po' diverso, non mi dà più cuore entrarci. prima era molto meglio, secondo me. Spaziava su tante cose, abbigliamento, come hai detto tu, elettrodomestici, di tutto, da piante, c'era tutto. Esatto, esatto. Lo spazio, visto che l'hanno suddiviso, quello che utilizzava Auchan, e l'hanno dato ad Euronics, e poi hanno aperto un altro negozio grande di abbigliamento lì a fianco. Adesso non mi ricordo come si chiama, perché ci sono andato qualche volta con mia moglie in giro con mia figlia prima che partisse, e si doveva comprare anche delle cose, per cui lo so e ho visto circa un mesetto fa come l'avevano organizzato. Avanti Francesco. Infatti quando c'era, diciamo, il francese lì, c'era di tutto. Adesso sono diventati una massa di falliti, li chiamo io, non c'è più niente, nulla, vestiario. Infatti lì avevo acquistato io un televisore, un 50 pollici, all'epoca l'avevo pagato la peceria, perché stavo prendendo quello lì, perché dovevo chiedere, anzi io manco lo sapevo, l'avevo sentito, ho detto, allora è per quello, questo prezzo così basso mi costa parecchio, se no un apparecchio del genere costa un sacco di soldi. Però adesso non c'è più, quindi è inutile. Però ti avvicini da Expert, sono tutti cari quelli, perché Expert è, ce ne sono lì, apparecchiature elettroniche, un po' di tutto c'è, ma Auchan era il migliore, si può dire, dai, però adesso non c'è più e quindi niente da fare. Ok, va bene, a ritornare a quello che stava, quello lì in barra mobile, prima lo sentivo, io l'avevo fatto entrare, dopo magari mi è sopremolato, evidentemente non mi sentiva bene, perché io sono un po' aperto per quella zona lì, specialmente per il muro, sono un po' aperto e quindi i segnali arrivano abbastanza forti, ma questo lo sentivo basso perché evidentemente era in zona proprio negativa, arrivava a livello di QRM. Ok, va bene. A te il cambio, Gianni. Beh, comunque adesso ti ascolto bene, Franci, ti ascolto bene, se non c'ho disturbi, dai, ti ascolto abbastanza bene, anche di radio. Vabbè, meglio così. Beh, non ho capito, questa parecchia spara circa 40 watt, non ho capito. Capito, quindi è così la situazione. Magari se avevi qualche disturbo di qualche motore elettrico lì via Sierra, ce ne sono di quella roba lì, ce n'è, e quindi se c'era quello in funzione crea disturbi e ti abbassa il segnale e non capisci niente. Ok, è così, c'era così sempre. Anche qua non è che sia, quando attaccano qualcosa sente il rumore del motore, si sente. Quei motori elettrici sono fastidiosissimi perché quando sono in funzione creano parecchio QRM. E niente, avanti Carlo. Non è motore elettrico, c'ho degli splatter, non l'avevo capito poco fa all'inizio, ma adesso l'ho capito. Vabbè, non c'è problema. Niente, io stavo provando, stasera ho messo una prolunga al microfono, praticamente adesso posso stare tranquillamente sul tavolo col computer e il microfono mi arriva sino al tavolo. Ho il problema che lo spinotto, come sbatte sul mobile, fa un po' di baccano, quindi lo devo isolare con un po' di nastro o qualcosa del genere, così come sbatte magari la plastica attutisce il rumore. In quella parte lì è pesante, dove ci sono gli spinotti di giunzione, va bene, dai. Sì, io non ho bisogno di prolunga, c'è un apparecchio che c'ha un capo che sarà 2 metri lungo, comprato da Fusano, non è infatti più corto, ho preso quello, ma mi va bene perché posso stare sdraiato e senza tirarlo modulo tranquillamente. E questo è una prolunga che ho trovato su internet cercando per questo tipo di microfoni di radio, ed è un cavo originale della stessa marca della radio, del microfono, per cui perfetto, perfetto, non, ed è adesso abbastanza lungo, adesso è spiralato, ma sono a quasi, penso anche più di un metro e mezzo dalla radio, se lo tiro arriverò sicuramente anche a più di due metri, capito? Però devo trovare un qualcosa di gomma per, da mettere sugli spinotti, no? Di giunzione, perché così quando sbatte almeno non fa rumore. Ma gli spinotti ce l'hanno già cablato? Esatto, già cablato, l'ho trovato una fesseria, 7 euro e qualcosa. Va bene. Poi essendo spiralato, tutte e due sono veramente spiralati, sia il microfono che il cavo di prolunga, per cui arrivo tranquillamente in cucina, vicino c'è un doppio servizio, arrivo sino alla porta del doppio servizio se lo tiro. E già va bene allora, dai. Già è utile, dai, quando uno deve fare qualcosa al computer almeno ci mette il microfono sopra e può fare l'uno e l'altro. Sì, esatto, a volte magari stai facendo qualcosa, tipo poco fa ero al computer perché noi abbiamo un simulatore, dobbiamo fare un'ora di addestramento al mese, per cui oggi sono di riposo e prima sono uscito in bicicletta, ero così un po' in relax a casa e ho detto mi faccio un po' di simulscan, però avendo il microfono corto, capito, tutte le volte mi tocca alzarmi e rispondere alla radio, e se stai facendo qualcosa al computer non è possibile, invece in questo modo riesco anche a tenere il microfono sul tavolo, per cui se sto facendo al computer magari riesco anche a chiacchierare oppure a rispondere a qualche chiamata. Ma simulatore di che genere? Simulatore aereo? No, praticamente è un simulatore dove ci passano delle immagini di bagagli e all'interno ci sono delle cose che dobbiamo fermare, capito? E ne devi fare un'ora al mese come addestramento. Mi ho finito anche settembre, io sono a posto. Ho capito, è un addestramento, dai. Esatto, è per tenerci allenati. Siccome non ne facciamo di ore là, capito? Quindi, però l'ENAC ha previsto questo e quindi noi addirittura la certificazione che abbiamo, ogni 5 anni dobbiamo rifare la ricertificazione, cioè si riunisce una commissione dell'ENAC con la Polizia di Stato, con uno del Ministero dell'Interno, vengono e ci danno questo tipo di test davanti a loro e noi dobbiamo, capito, fermare tutti gli oggetti che ci sono da fermare, capito, e hai tre possibilità, quella di ingrandire, quella di girare il bagaglio, oppure quello o trattieni o vai, quindi tu puoi fare trattieni e se fai trattieni devi dire la motivazione perché l'hai trattenuto, perché che ne so, c'era un coltello oppure c'era un cacciavite o c'era, capito? E il simulatore più o meno quello che facciamo di addestramento consiste in una cosa del genere. Sì, ho capito, adesso ci sono. Ed praticamente noi accediamo a questa piattaforma e inseriamo le credenziali d'accesso e lì ci abbiamo tutte, ogni mese una sessione da completare che dura un'ora, non ci prende molto tempo, capito, un'oretta, la puoi fare anche a più riprese, quando magari ne fai 10 minuti oggi, poi te ne fai mezz'ora un altro giorno, capito, molte volte anche al lavoro abbiamo la possibilità di farlo lì, se c'è qualche ora di buco eccetera, qualcuno si può spostare, quindi c'è un'aula formazione dove abbiamo i computer, andiamo e lo facciamo anche lì, però io preferisco farmela a casa perché me lo faccio più tranquillamente. Ah beh, certo, sì, ci rilassi di più. Esatto, e infatti spero di farne, in teoria dovrei farne un'altra tra 3 anni di questa ricertificazione e forse solo un'altra, poi spero di andarmene in pensione e buonanotte ai suonatori. E ci è arrivato così. Infatti, ci sono, che faccio questo lavoro quasi 17 anni, capito? Quindi alla fine, insomma, stare tutti i mesi così, anzi prima ne facevamo 4 ore al mese, poi ce l'hanno ridotta a un'ora, meno male. Cavolo, è che se non è che ci faccia più di tanto, è pesante, stare in piedi, stare tutte quelle ore, non è che ci faccia fatica, nel senso di roba manuale, però intanto è un lavoro di responsabilità e soprattutto si fanno molte ore. Sì, esatto, esatto, già. Avanti Francesco. Ok, perfetto, è quello. È un lavoro di responsabilità, sì, però anche qualcosa sono cavoli, se la prendono con l'interessato. Ma ok, va bene, bisogna stare attenti, anche se non è lavoro manuale, quello vuole molta attenzione. I liquidi, tutte queste cose qua sequestrano, perché che di tanto non puoi portare di liquidi. Ma cosa fare? Questa frequenza, forse di migliorare, sta diciamo sempre più abbassando. Caro, ma posso farti una domanda? Io ho un amico che lavora all'aeroporto di Roma e dice che è passata questa suora e praticamente dentro la valigia ci aveva un liso. Fuori è sempre, diciamo, molto scarsa come, diciamo, come movimento, diciamo, di radio. Ok, va bene, va bene. Prima sentivo anche a Dollaro, adesso manco lui si è più sentito, boh, chissà che fine ha fatto anche quello. Era sempre frequenza, adesso è mancato già da un bel pezzo, non lo sento più, boh. Va bene, va bene, io faccio sempre la vecchia maniera, se c'è qualcuno è buono, se non c'è nessuno, noi mi corrisco, non mi tuffo, tengo tutto, e via, niente, va bene, va bene. C'è anche quello di Muros, boh, anche quello è sparito, non si è più sentito manco quello lì, tipo Capri 2, il grande. E anche, diciamo, il figlio che ho da Arrugginito, come si chiamava, manco quello si è più sentito. Va bene, va bene, ok, riprendi. Ma cosa riprendere? Cioè, qua siamo rimasti in tre, in due, siamo sempre in due, in tre. Va bene, dai, riprendi. Ehi, a Francesco, sì, no, Claudio di Muros, Chiodo Arrugginito, il figlio, diciamo, dell'altro che stai dicendo tu, ci siamo sentiti anche da poco, ogni tanto già entra, circa una settimana fa ci siamo sentiti, di sera, sempre intorno a quest'ora, non entra spesso, sì, però ogni tanto già si fa sentire. Lui mi ha detto che anche il padre è un vecchio appassionato di banda cittadina e insomma che prima entrava di più in radio, però mi aveva detto che ultimamente non entrava poco e niente, capito? Così mi aveva detto. A te Gianni. Il padre è un vecchio CB, dai, è un vecchio CB, appassionato anche di apparecchi, li aggiusta, c'ha apparecchi di tanti anni fa, gli piacciono molto quelli d'epoca, li fa, li aggiusta, li fa, se li mette a posto li usa ogni tanto. Ho capito, sì, già me l'aveva detto Claudio. Sì, Claudio praticamente a volte lui va in banda laterale, si trova con altri amici.